Allora, come si trova Tione? Pure sei in io zona? La Jessica. Lei. Ah. Vengo poco. E cosa ne pensa dei giovani? Non so cosa dirvi. E secondo lei i giovani cosa pensano degli adulti? Mi avete preso un po' la sprovvista. Cosa vuoi dire?